Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, sì, sono di nuovo di fronte a questo microfono. Buona giornata da Deborah Rosciani. In questi giorni esplode il mio tasso di produttività, per cui dovrete accontentarvi di sentirmi piuttosto spesso. Però detto questo, non c'entra niente con il tema che affrontiamo stamattina a Salva Danaio. Parliamo di un tema invece piuttosto serio, perché piace a moltissimi consumatori. E allora, di cosa parliamo? Parliamo di una realtà che era già sotto osservazione da un po' di tempo e che a marzo ha concretizzato questa osservazione con una bella multa da 415.000 euro, una multa inflitta dall'antitrust, l'autorità garante del mercato, ad Expedia, eDreams e Opodo Italia. Che cosa sono queste sigle? Sono, molti di voi li conoscono molto bene, le conoscono molto bene, tre agenzie online che, tra le tante altre, insieme a tante altre che operano sul mercato, hanno permesso negli ultimi anni a molti utenti di viaggiare in tutto il mondo con un notevole abbattimento dei prezzi sostenuti. Infatti sono ricompresi in tutto quel variegato e articolato mondo che è il low cost. Perché è arrivata la multa a queste aziende? Perché l'autorità garante del mercato, al termine di tre distinte istruttorie, ha riscontrato una serie di comportamenti scorretti, in parte comuni, in parte differenziati, presso appunto adottati dalle tre società. In particolare tutte le società sono state sanzionate per avere promosso la propria offerta tramite internet con una illustrazione incompleta e in alcuni casi anche ingannevole di tariffe vantaggiose nella home page del sito. Quindi qual è, in sintesi, facciamo un esempio: vedo sulla prima pagina appunto di questi siti quanto mi costerebbe per esempio andare a Pechino piuttosto che a New York, vedo che c'è una tariffa promozionale, per esempio, faccio un esempio assolutamente a caso, di 200 euro, vado per completare tutto il percorso, vado per cominciare appunto a fare tutto il percorso per fare questa prenotazione e alla fine di tutta la compilazione di tutti i campi richiesti scopro che arrivo a spendere, non lo so, per esempio 400 euro piuttosto che 350, e quindi questa è una delle motivazioni per cui è arrivata la multa dell'antitrust. Ci sono però anche altri rilievi che sono stati mossi, adesso ve li racconteremo, ed è un periodo sicuramente di attività molto intenso per l'autorità garante del mercato. L'altra notizia di cui stamattina parlano tutti i giornali è quella relativa all'avvio dell'istruttoria per verificare invece se dietro agli aumenti dei traghetti per la Sardegna, con punte fino al 110%, ci sia un'intesa fra i principali operatori, intesa restrittiva naturalmente della concorrenza. Noi per oggi ci limitiamo a parlare del tema delle agenzie online. Ne siete dei fruitori, vi è capitato appunto di cominciare a fare una prenotazione e alla compilazione dei campi, come vi dicevo prima, appunto perché proprio attirati da un'offerta particolarmente allettante, poi arrivati al momento di dover digitare il click definitivo per completare tutto il percorso, la cifra si era lievitata enormemente, quindi lì insomma ci avete pensato anche un attimo se definire o meno il vostro piano di viaggio. 800 24 00 24, numero verde che vi permette di interagire con noi questa mattina, ma soprattutto di interagire con la dottoressa Rosaria Garozzo, direttore Servizi Tutela Consumatori dell'Autorità Garante del Mercato. Dottoressa Garozzo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno anche a Mauro Zanini, responsabile nazionale settore turistico e aereo di Federconsumatori. Buongiorno. Buongiorno a lei, ascoltatori. E saluto anche Enrico Cinotti, collega del Salvagente, che è un settimanale di diritti, consumi e scelte, in edicola peraltro da poco con una veste del tutto rinnovata. Enrico, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Abbiamo chiamato anche il Salvagente perché negli ultimi due numeri appunto del settimanale hanno indagato in maniera molto approfondita su questa realtà, proprio questa inchiesta spalmata su due puntate. Ci faremo raccontare da Enrico che cosa hanno scoperto, con una vera e propria prova sul campo per appunto verificare il funzionamento di questi meccanismi di cui vi abbiamo appena parlato. 800 24 00 24, numero verde che vi permette appunto di parlare con noi, ve l'ho ricordato ancora una volta, numero verde anche se lo conoscete benissimo. La borsa, rapidamente perché siamo già in ritardo, oggi è positiva, ve l'ho già raccontato nel GR, abbiamo un rialzo di quasi un punto a Parigi, Francoforte più 0,8, Londra più 0,8, Milano più 0,2, Milano un po' più tranquilla, oggi a trascinare verso il basso Milano sono i titoli bancari, ma soprattutto questo scivolone di Lottomatica che perde 4,5 punti, Exor meno 2, UbiBanca meno 1,15, media 7-1,10%, segno più su TOTS più 1,60, Banco Popolare più 1,30, Autogrill più 1,13%. Lasciamo la borsa, parliamo di turismo e di questa multa inflitta dall'antitrust a tre agenzie online. 300 euro per un volo andata e ritorno per New York? 400 euro per arrivare fino a San Francisco? Scovare tariffe interessanti sul web non è un'impresa impossibile, ma bisogna fare attenzione. Per essere certi della cifra che sborseremo alla fine, a quanto pare bisogna aspettare il click finale, vale a dire di concludere l'operazione. Spesso, infatti, alla tariffa espressa inizialmente vanno a sommarsi altre voci di spesa, come i costi di gestione, quelli per i bagagli nel caso di un volo o della carta di credito, che fanno lievitare il prezzo. Tanto che in alcuni casi si può arrivare a un conto finale superiore del 50% rispetto a quanto visualizzato all'inizio. E proprio la scarsa trasparenza di alcune agenzie online ha portato l'autorità garante della concorrenza e del mercato a sanzionare lo scorso marzo 3 dei principali player del settore per pratiche commerciali scorrette. Accanto alla scarsa trasparenza dei prezzi, nel mirino dell'antitrust sono finiti anche i meccanismi di assicurazione dei pacchetti vacanza poco chiari, ma soprattutto gli addebiti non dovuti su carte di credito per transazioni non completate. 800 24 00 24, vedo già alcuni ascoltatori che si stanno mettendo in coda per intervenire questa mattina. Per chi ce lo chiede, sì, abbiamo chiamato le compagnie interessate che hanno ritenuto opportuno non partecipare alla trasmissione. Ci dispiace molto questo, perché quando invece abbiamo parlato per esempio del successo del modello low cost anche nel settore turistico, sono venute anche di corsa. Adesso invece hanno ritenuto non necessario partecipare appunto a questa trasmissione. Devo dire che una in particolar modo aveva molta voglia di intervenire e raccontarci appunto le proprie ragioni rispetto a tutto questo. Expedia invece ha avuto un bel niet dall'ufficio legale, perché loro hanno fatto ricorso rispetto al provvedimento dell'antitrust e quindi prima di un'esposizione pubblica vorrebbero aspettare ancora un po', quindi questo almeno glielo dobbiamo riconoscere. Detto questo, dottoressa Garozzo, direzione servizi tutela consumatori dell'antitrust, ancora buongiorno, ci racconta qual è la genesi dell'istruttoria che poi è terminata appunto in marzo con la multa a queste tre aziende, come e quando era partita, non so come funziona in genere, sulla base di segnalazioni di consumatori che avevano evidenziato questi meccanismi non completamente chiari di prenotazione di voli e di alberghi? Sì, l'indagine è partita anche grazie a una serie di segnalazioni di consumatori, dopodiché l'autorità ha esteso l'indagine, dopo aver fatto una serie di verifiche, anche ad altri profili. I consumatori ci segnalavano, poi diciamo questo è stato l'oggetto principale, sia una scarsa trasparenza sui prezzi che vedevano nella home page del sito, sia poi c'era il problema che talvolta non riuscivano a trovare le offerte che venivano pubblicizzate e invece poi alla fine si ritrovavano ad usufruire di tutta una serie di offerte che avevano dei prezzi molto più alti. Questo era un primo aspetto. L'altro aspetto che ci hanno segnalato molto i consumatori è il fatto che per delle transazioni che non erano andate a buon fine si erano viste trattenere delle somme per un lungo periodo senza poter avere la disponibilità di queste somme sulla carta di credito. Quindi era il problema di questi addebiti che accadevano per un periodo limitato sulle carte di credito per i pagamenti online. Qui abbiamo svolto l'indagine, abbiamo verificato che il problema non dipendeva dagli istituti di credito come facevano credere le agenzie, ma dipendeva invece dal loro sistema interno di pagamento e di uno scarso controllo di questi meccanismi che non consentivano di monitorare i casi di anomalia nei pagamenti. Quindi, per farlo capire bene, dottoressa Garozzo, per esempio io prenoto un volo del quale poi non usufruisco, ma avevo già completato tutto il processo di pagamento, praticamente a quel punto l'agenzia online avrebbe avuto il dovere di restituirmi quanto già versato, ma loro non lo facevano, diciamo non lo hanno fatto in tempi ragionevoli, congrui, attribuendo la responsabilità alla società che gestisce la carta di credito, in sostanza tipo sì. La Visa della situazione, l'American Express o quant'altro. Esatto, era quello che accadeva. In pratica erano in tutti i casi quello che materialmente faceva l'esercente. Lui come altri diciamo, operatori online chiedono una preventiva autorizzazione agli istituti diciamo emittenti la carta e poi attraverso il viaggio, attraverso poi i circuiti di pagamento, l'autorizzazione al pagamento in modo da verificare la disponibilità delle somme sulla carta di credito. Si verificava che talvolta arrivava l'ok da parte appunto del circuito di pagamento, poi potevano essere una serie di disguidi e non deriva ad essere effettuata lo successivo passaggio della conferma della transazione, per cui al consumatore gli veniva informato che la transazione non era andata a buon fine, la somma però restava bloccata secondo quelle che erano le regole dei circuiti, che potevano andare per dei tempi variabili per 10-40 giorni o anche più, e invece l'esercente, in questo caso appunto le agenzie online, non facevano nulla per sbloccare in modo automatico queste somme che risultavano bloccate, anche se avevano potenzialmente lo strumento per farlo. Dottoressa Garofano, le chiedevo di velocizzare appunto sul racconto dei comportamenti scorretti che avete rilevato, perché c'è anche il terzo aspetto, gestione scorretta dei reclami in 40 secondi, perché poi devo andare alla prima pausa, poi commenteremo con gli altri ospiti. Sì, qui il problema è stato per Expedia il fatto che non faceva capire dove dovevano essere indirizzati i reclami e chi era il soggetto che gestiva i reclami, perché qui c'è un problema appunto di grande operatore che opera a livello internazionale, ma che pure si avvale di una sede in Italia, la sede locale, quindi l'autorità ha verificato che chi era il soggetto, l'interlocutore di riferimento era proprio questa società. Motivo per cui peraltro non c'è l'ospite a Salvadanaio, deve essere autorizzato dalla casa madre britannica, tra l'altro, chiusa parentesi, infatti. È la casa statunitense, la casa madre sta negli Stati Uniti. E per quanto riguarda invece Dreams, era un problema di mancata gestione dei reclami per quanto riguardava anche appunto queste carte di credito, eccetera, perché c'erano ostacoli nel chiamare e contattare l'operatore. Si dava tra l'altro la possibilità di contattarlo tramite un numero di a pagamento dai costi notevolmente elevati, e quindi l'autorità ha ritenuto scorretto questo fatto che non si desse pronta risposta, e per giunta, per avere risposta ai propri reclami bisognava utilizzare quel mezzo che al consumatore costava tantissimo, era un numero a pagamento molto molto elevato. Benissimo, per modo di dire. Detto questo, questi tutti i rilievi appunto che l'antitrust ha fatto, poi è arrivata la multa, adesso bisognerebbe capire se le società in questione hanno messo in campo iniziative per migliorare anche i loro standard di comunicazione, di accaparramento della clientela. Ne parleremo poi con i consumatori, ma anche con il collega Cinotti appunto del Salvagente, che sta facendo delle puntuali verifiche sul funzionamento di questi siti. Allora, oggi parliamo di viaggi e parliamo di quella modalità che viene scelta da sempre più consumatori italiani, di prenotare viaggi, voli, alberghi sulle compagnie low cost. Ce ne sono tante in Italia e hanno permesso appunto un abbattimento notevole, sono molto concorrenziali come sapete, e però qualche volta nelle modalità di comunicazione delle proprie offerte ai consumatori non sono completamente trasparenti, al punto tale che l'antitrust ha acceso un riflettore su di loro, un riflettore che si è poi spento in marzo con una bella multa inflitta a queste aziende, 415.000 euro, combinata ad Expedia, eDreams e Opodo Italia. Detto questo, nessuno ovviamente vuole mettere in discussione il modello di successo di queste società, però insomma sugli standard di comunicazione si può lavorare ancora per migliorare sicuramente le informazioni pubblicitarie soprattutto. Enrico Cinotti, il Salvagente, ancora buongiorno Enrico. Senti, anzi ti faccio sentire una testimonianza di un ascoltatore per poi così verificare se corrisponde a quanto avete appurato voi con la vostra indagine sul campo con le compagnie. Giuseppe da Crotone, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica, ci racconti. Allora, io ho sentito la trasmissione, praticamente quello che voi dite corrisponde a verità. Io è uno strumento, al di là del lato positivo, perché uno dallo studio si programma la vacanza, il viaggio di lavoro, insomma, è di una comodità estrema. Però più delle volte uno deve rinunciare, perché dal prezzo che si parte, poi alla fine, diciamo, ci sono dei prezzi che sono addirittura quadruplicati, quintuplicati, quindi addirittura uno rinuncia. E poi vai in agenzia, come ad esempio io, mi è capitato il periodo di marzo, dovevo recarmi a Düsseldorf, c'era un banner che diceva sul sito: voli da Roma a Düsseldorf 29,90 euro, poi ce ne volevano quasi 3,60 per andare. Ah, però, la dottoressa Garozzo adesso mi sa che vuole una segnalazione molto precisa di questo caso. Vabbè, tanto ormai la multa l'hanno presa. Beh, da 30 euro a 360, qua praticamente è moltiplicato come i panni e i pesci questo prezzo. È come dire, magari, che sono quei voli, si vola a 1 euro, però magari c'è un posto solo, poi a 1 euro. Però, insomma, guarda, da 30 a 360 è tanta roba, non è che stiamo parlando da 30 a 50. Comunque Giuseppe, grazie. Vedo invece anche chi sponsorizza pienamente questo modello e non ha notato nessun tipo di servizio comunicativo in questo senso. Luca, buongiorno, da Pavia. Signora, buongiorno. Buongiorno. Sì, io volevo spendere una parola a favore di Expedia. A me piace molto l'Europa, io ho usato Expedia tante volte nel corso degli ultimi anni per andare in città, in capitali, città europee splendide e soggiornare in alberghi molto belli, sempre alberghi 5 stelle, trattato al mio arrivo come un cliente normalissimo, non perché magari io avessi pagato una cifra più bassa, e spendendo, le dico veramente poco, e il prezzo proposto era poi il prezzo che io pagavo, erano mini vacanze. Sì, sì, no, no, ma infatti Luca non è questo il problema, non è la qualità poi della rete, del network che queste aziende hanno. Io con Expedia, adesso mi tocca pure fare pubblicità, non vorrei farla, però l'ho fatto, con una mia amica ho organizzato delle signore vacanze negli Stati Uniti. Il problema è i banner di cui parlava prima l'ascoltatore precedente, le offerte molto molto, molto aggressive, molto forti, che poi nella compilazione appunto di tutto il percorso che deve essere fatto diventano tutt'altro prezzo. Enrico Cinotti, il tema è questo, no? Non tutto funziona nella maniera in cui abbiamo raccontato, ma offerte molto competitive, pubblicate in maniera molto vistosa sulla home page del sito, che diventano alla fine, quando la compilazione va ultimata, quindi quando si deve cliccare proprio l'ok definitivo, che diventano tutt'altro. Assolutamente, mettiamo, diciamo, come dire, un punto fermo. Qui non stiamo parlando di convenienza rispetto alle tariffe che vengono offerte, qui stiamo parlando di trasparenza nel modo in cui queste tariffe vengono pubblicizzate e clic dopo clic, schermata dopo schermata, si riempie la prenotazione e arriviamo al costo finale. Noi siamo partiti semplicemente scegliendo un campione che era una famiglia di 4 persone che doveva recarsi a Palermo, andata e ritorno da Roma. Ovviamente la scelta della tratta è del tutto casuale e abbiamo, come dire, insomma, utilizzato queste agenzie online per capire dal prezzo che noi abbiamo chiamato civetta, ma che gli operatori chiamano dal prezzo vetrina, ovvero quello che viene, quello che compare sull'home page nel momento in cui noi individuiamo le tratte di arrivo e di partenza, e abbiamo appunto verificato qual era il costo alla fine della prenotazione. Ci siamo accorti che, al di là di alcuni operatori un po' più virtuosi di altri, anche grazie, diciamo, al sonoro richiamo, usiamo l'eufemismo, della antitrust, al di là quindi di alcune differenze, ci siamo resi conto che i prezzi di arrivo rispetto alla prima schermata vanno da rincarano da un più 18% addirittura un più 57%. Questo perché le spese di gestione, che fanno, diciamo, una voce abbastanza consistente, clic dopo clic, e nello stesso tempo, solo all'ultima schermata, i costi per il pagamento con carta di credito, fanno davvero lievitare la tariffa di partenza e, come dire, insomma, quell'idea e quella promessa di low cost rimane comunque sempre attuale, ma sicuramente la convenienza si abbassa di molto. Certo, no, poi tra l'altro quello che disturba è anche che mi viene anche da ridere che debba essere, per carità, sostenuto un prezzo o un costo per il bagaglio. Chi parte con un volo aereo, a meno che ovviamente non si faccia un viaggio in giornata per andare su Roma, ne so, da Milano per lavoro eccetera, ma mediamente anche per raggiungere delle capitali europee si fa un minimo viaggio, un bagaglio ce l'hanno tutto, quindi mi sembra anche abbastanza assurdo che questo non sia ricontemplato nella cifra e nel prezzo pubblicizzato inizialmente, Enrico, non trovi? Deborah, se posso, ancora certo. Più paradossale, perché noi i costi del bagaglio li abbiamo confrontati rispetto ai costi che vengono imposti dalla compagnia aerea, cioè dal vettore che opera il volo, e in diversi casi i costi che vengono imposti prenotando direttamente dal sito del vettore sono più bassi rispetto a quelli che noi invece ci ritroviamo se andiamo a prenotare con una di queste agenzie online, che sono anche molte. Noi abbiamo preso in considerazione le 4 principali, ma parliamo, insomma, di almeno in Italia di una decina di questi portali che offrono questo tipo di servizio. Allora Enrico, tra l'altro volevo ricordare, poi ce lo spieghi tu meglio nel dettaglio, che la vostra inchiesta su questo mondo si è spalmata in 2 numeri del Salvagente, poi ci racconterai appunto in entrambe le parti dell'inchiesta quali dettagli avete affrontato. C'è proprio anche tutta la specificità legata all'utilizzo della carta di credito e tutto quell'aspetto che all'inizio ci spiegava la dottoressa Garozzo. Allora, abbiamo ancora 1,5 minuti di tempo prima di andare ai suggerimenti per chi è in viaggio. Mauro Zanini di Federconsumatori, ancora buongiorno. E allora, sono tut- tutte queste le denunce anche che vi rivolgono i consumatori che si rivolgono a voi, che si rivolgono, ho detto 40 volte, nella sostanza i consumatori amano questo modello, possono viaggiare forse più del passato a tariffe più ridotte per tante tratte che magari, non lo so, molte persone pensavano di non potersi mai permettere, invece adesso grazie anche al modello low cost possono fare dei bei viaggi, ma però insomma qualcosa non funziona. Che cosa pensa di tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento? Ma penso che effettivamente siamo di fronte che negli ultimi anni il settore del trasporto aereo, pur con i momenti anche di crisi che ci sono stati, ha comunque tenuto, soprattutto perché c'è stata una forte crescita nel settore dei voli low cost. Oggi questo è un fatto indiscutibile e molto importante, quindi è importante però che questo mercato sia un mercato trasparente. Già se pensiamo nel 2007, quando la Commissione europea fece con la collaborazione di 16 autorità nei diversi paesi dell'Unione Europea un'indagine di monitoraggio sui siti web che riguardavano sia l'agenzia, sia i tour operator, sia i siti delle compagnie aeree, il 35% di questi siti è stato riscontrato delle irregolarità, quindi segno che su questo versante c'è ancora molto da fare. Poi pensiamo che nella legge, una delle prime, la cosiddetta prima lenzuolata di Bersani del 2007, che proprio in un specifico articolo veniva imposto l'obbligo di creare una massima trasparenza, che il costo soprattutto per le tariffe aeree fosse complessivo e che non indicasse l'indicazione del prezzo al netto delle spese, ma che indicasse effettivamente il costo complessivo, proprio perché già con lo sviluppo delle transazioni online già in quegli anni c'erano dei segnali molto critici su questo versante, e il fatto stesso che poi l'Unione Europea abbia emanato il regolamento della Comunità Europea numero 1008 del 2008, dove è atteso proprio a precisare che il prezzo finale deve essere sempre indicato e includere tutte le tariffe aeree e passeggeri, tutte le componenti di tassi e diritti, e credo che su questo versante ci sia molto da fare. Quindi ben venga il mercato, ed è un fatto vantaggioso, ben venga anche che sia meglio regolamentato. Noi auspichiamo anche che ci siano autorità nel settore del trasporto, perché è importante che questo intervento, di cui va riconosciuto il plauso soprattutto all'autorità antitrust che è intervenuta e che è intervenuta anche recentemente l'11 marzo anche nei confronti soprattutto di questa novità importante, anche di alcune compagnie aeree che sono state anch'esse sanzionate per una sanzione di 285.000 euro, compagnie aeree importanti come l'Italia, Blue Express, Germanway e Airy, dove su questo versante hanno avuto sanzioni non indifferenti per quanto riguarda anche qui la trasparenza e la poca correttezza per quanto riguarda le prenotazioni online attraverso i loro siti o attraverso i loro canali. EasyJet solo nell'ultimo click chiede 12 euro di commissioni per pagare con la carta di credito senza dare la possibilità di pagare con bonifico, ci scrive Maurizio, e tanti altri messaggi di questo tenore. Al 349-238-6666 le multe dell'antitrust vengono pagate, glielo spiego all'ascoltatore, perché pensi che questo denaro praticamente il Ministero dello Sviluppo Economico lo redistribuisce fra le associazioni dei consumatori che poi organizzano delle campagne di informazione sulla tutela di ogni tipo di diritto. Lo so perché queste campagne sono in corso, stanno partendo, sono per esempio Check Up Diritti di Altro Consumo, Codici, Associazione Consumatori Utenti, mentre c'è un altro gruppo di associazioni dei consumatori che invece ha lanciato la campagna Occhio che ti riguarda, lo so perché me ne sono occupata proprio a Salvadanaio qualche tempo fa, quindi l'antitrust multa e questo denaro lo riceve, poi attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico viene questo denaro redistribuito alle associazioni dei consumatori per campagne di informazione su questi argomenti. Detto questo, andiamo a Federica da Bergamo. Federica, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Volevo dire che recentemente ho preso un biglietto aereo di una nota compagnia low cost da Bergamo e mi sono trovata debitata 5 euro come duty delay, cioè sulla cancellazione. Nel sito italiano non c'è, nel sito irlandese dicono che siccome loro non sono responsabili se nevica, se c'è sciopero, se ci sono le polveri sottili, un vulcano che esplode. Quindi quindi hanno deciso di fare pagare queste tasse ai passeggeri. Mi chiedo se questo sia legale, oltre al discorso della carta di credito, perché sempre in aeroporto a Bergamo ho pagato il parcheggio, me l'hanno aumentato di 60 centesimi perché ho pagato con carta di credito. Ah vabbè, sì, quindi poi li guarda, come il carburante, sì. Un po' questa. Il tema della carta di credito, peraltro, l'utilizzo per certe transazioni, certe commissioni che vengono applicate, è un altro tema. Federica ha detto questo, lei ha citato l'aeroporto di Bergamo, la compagnia irlandese, sappiamo benissimo quale parte da là e quindi abbiamo capito di quale sta parlando, che Ryanair, caso sul quale vuole dire la sua anche Gianluca da Roma. Gianluca, buongiorno, rapidissimo, grazie. Buongiorno, ringrazio. Io ho avuto due esperienze negative, sempre con la stessa compagnia. Praticamente ho fatto una prenotazione online, pagata con la carta di credito, e mi ha detto che non era andata a buon fine, quindi non c'era stato l'addebito. Ho rifatto la prenotazione. Praticamente mi sono trovato ad aver prenotato due volte lo stesso posto a nome della stessa persona, avevo due biglietti, quindi il sistema non l'ha riconosciuto, ho pagato il viaggio due volte. Ok, allora le hanno restituito questo denaro almeno per il viaggio? Assolutamente, ho scritto, ho telefonato. Assolutamente no? No, assolutamente no, ho telefonato 20 euro di telefonata certo, e non ho risolto niente. Ho scritto, mi hanno risposto in un italiano, insomma, poco comprensibile, che non si poteva fare niente. Ah, questo non ci piace. Zanini, ha sentito? Ho sentito. Credo che su tutti questi episodi c'è molto bisogno di intervenire, fare segnalazioni. Ce ne arrivano anche noi come associazione, nella nostra rete di sportelli, e credo che siano cose queste su cui va fatta anche in questo caso una diffida. Bisogna lavorare per portare a casa risarcimenti e forme di ristoro per tutti. Che cosa possiamo far fare a Gianluca da Roma? Allora, intanto, chiaramente, utilizzare lo sportello reclami di questa compagnia, che non so se sia di facile reperibilità, però insomma è assolutamente scorretto il comportamento nei suoi confronti. Quali suggerimenti di comportamento gli possiamo dare per poter rientrare in questo di questa cifra? La prima cosa, ha fatto una lettera di diffida, quindi di reclamo e diffida da adempiere, richiedendo la restituzione di quanto hanno loro incassato in modo indebito. Per quanto riguarda la questione di questo caso, ma di tanti altri che si verificano, è importante creare una maggiore sensibilizzazione, una maggiore informazione, non ingoiare il rospo, ma far sì che questi piccoli balzelli, questi inadempimenti contrattuali, questi disservizi, dobbiamo far sì che diventi una battaglia di ampio respiro, proprio perché sul tema delle disservizi, sul tema di questi balzelli, è una questione di una ampia, molto ampia, sono milioni e milioni le persone che viaggiano e che sono spesse vittime di questi sopruti. Infatti, anche perché poi tra l'altro ci dispiace, c'è tutto il mondo dei ragazzi, dei giovani, che ovviamente amerebbe viaggiare e ovviamente ha necessità di farlo spendendo poco, per cui c'è un mercato vastissimo e non si capisce perché lo si debba aggredire con queste modalità così poco chiare. È un peccato anche per questa industria, che potrebbe avere anche maggior successo rispetto a quello che ha già. Maria Grazia da Saronno, in 10 secondi la sua testimonianza, poi chiudo con Enrico Cinotti. Debora, confermo tutto quello che ha detto il signore. Io il 29 marzo ho fatto una prenotazione con Booking.com e mi hanno trattenuto per 20 giorni quasi 700 euro, imputando il fatto alla compagnia aerea e all'albergo, mentre invece era un fatto loro. Benissimo, benissimo, per modo di dire. Maria Grazia, grazie e naturalmente buona giornata. Enrico Cinotti, come concludiamo? Voi tra l'altro nella vostra inchiesta sul salvagente avete affrontato anche il mondo di tutte le assicurazioni legate a questi viaggi. Sì, noi torniamo anche domani in edicola con una terza puntata, perché non vogliamo mollare questo argomento di forte impatto anche per gli utenti in prossimità delle vacanze. Abbiamo messo in evidenza il fatto che durante la prenotazione su diversi siti di agenzie l'utente non ha la possibilità di escludere in automatico l'assicurazione che viene addebitata. Metto in evidenza l'ascoltatrice da Bergamo, il fatto che purtroppo la tassa che viene che viene chiesta da Ryanair non è di 5 euro ma è di 7,20 euro a tratto, un vero paradosso, ovvero diciamo in qualche modo si chiede di anticipare all'utente una eventuale multa per un disservizio che verrà poi, come dire, insomma, a ricadere in testa proprio all'utente stesso. Concludo mettendo in evidenza quelle che sono i costi esorbitanti e senza una logica operativa delle commissioni per il pagamento di carta di credito. L'antitrust proprio la scorsa settimana è intervenuta e c'è anche un altro elemento da mettere un po' rapido, Enrico, che sta chiudendo, sì, la lente di ingrandimento. Questi costi chiesti dalle agenzie ed eventualmente rigirati alle compagnie aeree, effettivamente chi li chiede e perché, diciamo così, non c'è trasparenza su questi costi così elevati. Grazie ad Enrico Cinotti del Salvagente, Mauro Zanini di Federconsumatori e la dottoressa Rosaria Garozzo dell'Antitrust. Continueremo a monitorare, voi continuate però ad usarli questi servizi, ma diteci dove non funziona e così noi lo stesso appunto monitoreremo attentamente. Buona giornata a tutti, a domani.